della Vergine, l'amore della Dea, sì, ma il real fu dolore e l'ideal fu sogno. Giunto sul passo estremo estrema età, in un sogno supremo si bella l'anima già, si bella l'anima già, in un sogno voglio donar la vita. Sfiorò il suo sotto una savia legge, lo che surgano mille, a mille già questo sogno sia la santa poesia e l'ultimo bisogno dell'esistenza mia, dell'esistenza mia. Voglio che questo sogno sia la santa poesia dell'esistenza. 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话。请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。

Un dì all'azzurro spazio guardai profondo e ai prati cormi di Dione pioveva loro il sole e folgorava loro il mondo pare alla terra un immane tesoro Thank you. questa mano